Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Come farò per conquistarle il cuore? Un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh.